sense of our common dangers. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. We can understand that there will be war and still strive for peace. We can do that. That is the story of human progress. Può essere comprensibile che si sia in guerra e al tempo stesso lottare per la pace. Possiamo farlo perché questa è la storia del progresso umano, questa è la speranza di tutto il mondo. Sono le parole conclusive del discorso di Barack Obama pronunciato ieri a Oslo in coincidenza con la consegna del riconoscimento del premio Nobel per la pace al presidente degli Stati Uniti d'America. Il discorso ha lasciato il segno in positivo e in negativo presso opinionisti, giornali, televisioni che ne discutono instancabilmente nelle ultime 24 ore. Nel frattempo la famiglia Obama è già tornata, la coppia Obama è già tornata in famiglia dai figli e i vari altri membri della tribù che attendevano a Pennsylvania Avenue. Credo che circa una decina di minuti fa il presidente abbia messo la chiave nella toppa alla Casa Bianca e abbia concluso la sua veloce spedizione, 24 ore veloce spedizione in Norvegia per ritirare questo Nobel così discusso. A noi restano le moltissime reazioni di cui intendiamo oggi riferirvi anche con la partecipazione di un paio di ospiti. Comincerei dal New York Times, naturalmente il più autorevole quotidiano americano. Ha dedicato un paio di editoriali al discorso di Obama a Oslo. Il principale comincia così, dice: accettando il premio Nobel giovedì, Obama ha offerto a chi lo ha ascoltato il discorso che aveva bisogno di pronunciare, ma noi sospettiamo che non fosse esattamente il discorso che il comitato del Nobel avrebbe voluto ascoltare. Tra le altre reazioni, sempre sul New York Times, tra l'altro si legge che Barack Obama avrebbe esposto la dura verità, viene giudicato in questo modo il discorso di Obama, viene anche difeso. Il quotidiano New York si schiera con la visione di Obama di una guerra difficile ma necessaria. Pensare che queste parole della guerra difficile ma necessaria sono entrate improvvisamente nel lessico di tutti i media. Molte altre reazioni, ne ascoltiamo o ne leggeremo qualche altra tra qualche istante, ma intanto il primo ospite. Primo piano. Dell'evento del giorno del Nobel a Obama per la pace e di tutto ciò che ruota intorno veramente a livello planetario attorno a questo evento. Facciamo ora due chiacchiere con Fabio Cavalera, il corrispondente da Londra del Corriere della Sera, titolare in questi giorni, tra l'altro è uscita in libreria, di un volume dedicato alla sua esperienza di corrispondente dalla Cina. Il libro si chiama Repubblica Impopolare Cinese ed esce da Buon Piani. Grazie Fabio. Grazie a voi. Allora, prima di tutto un parere personale, dai, facciamo un piccolo sgarro sul Nobel a Obama che adesso leggiamo dopo la consegna e dopo quel discorso nel quale, come dire, Barack Obama ha fatto propria una guerra, perché di fatto questo è successo. Con le sue decisioni, in un certo senso, ha modificato quello che fino a quel momento era un tracciato che aveva un po' subito, no, da parte dell'amministrazione Bush. Ha preso delle decisioni, ora l'Afghanistan è una questione che sta gestendo in prima persona e va a Oslo a ritirare questo premio. Come giudichi tutto ciò? È inaspettato e soprattutto mi incuriosisce vedere e capire come si porterà dietro questo, tra virgolette, peso enorme del premio Nobel, perché gestire il futuro in Afghanistan avendo in mano il premio Nobel è realmente, credo che sia realmente complicato. Mi incuriosisce assai. pensi sia tutto sommato il risultato di un premio alla leadership, a questo forse in un certo senso un effetto di questo bisogno di leadership che l'Occidente in questo momento ha così intenso, al punto poi da consegnare, no, al titolare di questa leadership tutta una serie di allori, anche quelli forse non richiesti, tutto sommato, no? È come forse se l'Occidente si sia voluto liberare del peccato, e cioè della vecchia amministrazione, e abbia voluto riscoprire qualcosa di nuovo e di fresco, e quindi ha riscoperto una leadership come quella di Obama, che obiettivamente qualcosa di nuovo ha detto e ha portato. Certamente bisognerà vedere poi come lui riuscirà a tradurre questo consenso che ha in politiche e in interventi che possano, come dire, agire sul reale. Sei in servizio a Londra in questo periodo, e quindi volete o nolente Obama lo vedi, perché è sul tuo computer e nelle tue notizie giorno per giorno, ma mi racconti un Obama visto da Londra, ovvero il peso e il significato e eventualmente anche le critiche che il personaggio sta ricevendo dal punto di vista inglese. Ma la prima cosa che mi colpisce è che, a differenza di altri capitali europee che hanno bene a fuoco e hanno al centro dell'attenzione Obama, a Londra Obama è sì al centro delle attenzioni, ma non come lo è in tutte le altre capitali. Londra è in questo momento è molto ripiegata su se stessa. E quindi guarda a Obama di riflesso, mettendo prima nel mirino i problemi britannici e poi di riflesso andando a vedere che cosa fa e che cosa dice Obama. È sicuramente un presidente verso il quale vi è curiosità, attenzione, come deve essere, come è in tutto il mondo, e con il quale credo che Gordon Brown abbia un buon rapporto, ma gli inglesi si sono anche accorti che l'amministrazione Obama è un'amministrazione che sa essere anche molto pragmatica. Infatti l'amministrazione Obama ha già stretti rapporti anche con i conservatori, perché l'amministrazione Obama sa che è possibile in maggio un cambio di maggioranza a Londra, e quindi la politica inglese è molto attenta e ha un rapporto stretto con l'amministrazione americana. Una politica inglese che forse in questo momento poi, come dicevi, ha un respiro un po' più isolazionista di prima, mentre Obama invece contrariamente è uno che si apre, no, alla questione internazionale. Direi che in questo momento è proprio come hai detto tu, in questo momento la politica inglese è molto ripiegata su se stessa e sui problemi enormi che ha il Regno Unito, e quindi non ha quel passo che può avere o che ha l'amministrazione Obama. Il governo inglese, quando c'è stato il G20, il primo G20 di Londra, si è molto speso, ovviamente, per strumentalmente, per fini interni, eccetera. Però mi pare che in questo momento sia, come hai detto tu, il governo inglese si è molto ripiegato su se stesso. Però ecco, qual è il rapporto fra il britannico medio e l'immagine che offre l'amministrazione Obama? Io credo che sia un rapporto di perplessità in questo momento, di perplessità, perché sono molto condizionati gli inglesi dall'avventura prima in Iraq e poi in Afghanistan, e molto condizionati da Blair. In questo momento gli inglesi vedono Blair come una sorta di diavolo, temono che il rapporto anche con l'amministrazione Obama possa trasformarsi in una sorta di subalterneità di Londra a Washington. Lo è stata ai tempi di Blair e Bush, in qualche modo, e sta venendo fuori dalla commissione d'inchiesta sulla guerra, e temono che possa essere oggi o domani anche con l'amministrazione Obama. Quindi, meno voglia di farsi trascinare, insomma. Meno voglia di farsi trascinare, esattamente. Grazie, buon lavoro Fabio. Grazie, grazie a voi. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Sweater by the fireside, Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Buongiorno America. This is obviously an extraordinary evening. I was telling the committee members that having entirely exhausted myself with the speech this afternoon. E questo è l'Obama dopo il grande solenne discorso, l'Obama che invece si concede nel momento del brindisi a un'audience più ristretta, in un certo senso rievoca se stesso e rievoca anche la lunghezza del discorso. Ha detto: alla fine ero letteralmente distrutto per la performance, qualcuno l'ha anche sgridato, gli ha detto che ha esagerato, ha parlato troppo, forse quello era più un premio che il podio da cui pronunciare un discorso così importante, solenne, generale di politica estera, ma di fatto ormai il gesto era compiuto, il dado era tratto. Poi c'è stata la dedica da parte del presidente a sua madre, ha detto: questo premio è alla memoria della donna senza la quale, senza gli ideali che mi ha trasmesso, senza il suo cuore generoso, non sarei oggi qui. E poi ci sono, tra le altre reazioni che continuiamo a registrare, ormai questi crescenti segni di approvazione, questi ammiccamenti sempre più aperti e decisi al presidente Obama, che arrivano da parte della destra americana. Newt Gingrich, possibile candidato contro Obama nel 2012, si è detto entusiasta di quanto il presidente ha detto a Oslo. Obama, dice Gingrich, ha capito che il premio gli è stato dato prematuramente, ma ha usato l'occasione per ricordare alla gente che il male nel mondo esiste. Ha definito Obama un progressista che ha saputo ricordare ai giurati del Nobel che non sarebbero mai stati liberi, che non avrebbero potuto dargli quel premio per la pace senza che un certo giorno fosse stata usata la forza. Pensate, addirittura Sarah Palin, che insomma di Obama non parla mai bene, invece oggi ne parla bene. Ha detto di aver apprezzato particolarmente quello che il presidente Obama ha detto, e poi ha detto che però lei lo aveva scritto prima. Dice: sono subito andata a confrontare le affermazioni del presidente con quello che dico io nel mio libro, di cui abbiamo spesso parlato, perché tante delle frasi, tanti dei ragionamenti sulla guerra giusta, questo è il termine che corre ovunque nei media americani oggi, io li avevo già proposti nel libro, che peraltro sta vendendo più di qualsiasi altro in America. Abbiamo chiesto un parere sul discorso di Obama anche a un esperto osservatore di cose americane, per quello che riguarda invece la platea italiana, come Vittorio Zucconi di Repubblica. Ecco che cosa ci ha detto. E Obama ha rivelato quello che ogni presidente americano ha dovuto scoprire, cioè che il pacifismo è qualcosa che un presidente americano non si può permettere, è un lusso che non si può permettere. Quello che lui ha cercato di fare, ed è un'impresa difficile perché aveva fatto promesse di tipo un po' messianico, quindi di essere veramente un uomo diverso, e si è rivelato un uomo normale alle prese col problema di affrontare delle guerre che lui non ha voluto, non ha fatto, ma che adesso sono sue, come la guerra in Afghanistan, molto più di quella in Iraq. E lui insiste sul tema della guerra giusta rispetto alla guerra sbagliata. Questa è la sua unica speranza. L'America ha combattuto tante guerre, molte giuste, molte ingiuste, e lui spera di dire e di farne una guerra giusta per giustificare anche questo premio Nobel, che ha accolto in effetti, devo dire, con molta modestia e anche con una punta di imbarazzo, perché l'uomo ha capito che il premio, diciamo così, è un po' prematuro. Però questa è l'idea, fare una guerra giusta per arrivare poi a una pace giusta, in fondo essere Churchill, ecco, e non il Bush che invade l'Iraq. Quindi sei convinto che, come gli è sempre capitato, almeno fino adesso, aveva una specie di imbattibilità, no? Quando era in grandissima difficoltà ne è sempre saputo uscire in modo brillante. Ci è riuscito anche questa volta, secondo te, Vittorio? Sul piano oratorio-retorico, certamente, perché lui rimane, ma non so da quanto, da molti, molti anni, l'uomo che parla meglio. E poi c'è naturalmente il linguaggio dei fatti, che è un pochino più complicato, però io credo che lui sia arrivato adesso al minimo della sua popolarità dopo tante illusioni, e se gli vanno bene alcune cose è un uomo che potrà risalire, perché non sottovalutate Barack Obama, è un uomo apparentemente di velluto, morbido, dinoccolato, un po' da suonatore di jazz, molto così sciolto o cool, come si dice in inglese, ma sotto sotto è un uomo molto molto duro. Grazie, grazie Vittorio. Grazie a voi. Greg Sargent per NBC si chiede se sia nuovo ormai, sia rinnovato da oggi il discorso di politica internazionale tra i grandi leader del mondo, se Obama ha inventato qualcosa, prova anche a varare un paio di etichette, parla di idealismo realistico o di realismo idealistico, io non so, ancora non mi rigiro tra queste etichette. Per l'inizio della prossima settimana sarò certamente pronto. Questa Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valeria Rocchetti a Roma e Valeria Bernardi a Milano. La nostra mail, buongiorno America, è radio24.it, la pagina Facebook si chiama redazione Jefferson 3, la replica va poco dopo mezzanotte, la diretta appunto lunedì poco dopo l'una e mezza qui su Radio 24. Buon weekend a tutti, state bene.